Letture di Radio 24. In occasione dell'80° compleanno di Paolo Villaggio, lo scorso dicembre, sono tornati in libreria i tre romanzi dedicati alle disavventure del ragionier Ugo Fantozzi, il personaggio che avrebbe poi dato vita alla fortunata serie di film. Tra gli episodi del primo libro, pubblicato nel 1971, c'è anche quello della partita a bocce, che sarebbe stato utilizzato qualche anno dopo nel film Fantozzi il ritorno. Domenica è stata una giornata infernale, con pioggia dirotto fino a sera. Ma la scampagnata con il direttore dell'ufficio acquisti, conte dottor Mughini, era stata programmata da tempo. L'appuntamento era alle 4 del mattino sotto la casa del conte. Fantozzi alle 3:20 era già in attesa, stravolto dal sonno. Non aveva dormito per paura di non svegliarsi e aveva due borse sotto gli occhi che gli arrivavano fino alla vita. Il conte si presentò a mezzogiorno in punto. «Mi scusi, mi ero assopito». Partirono. Volle guidare il conte. Dopo 3 ore tremende lungo una strada tutta curva, nella quale Fantozzi vomitò anche il polmone sinistro, arrivarono alla trattoria del cacciatore, un posto tragico, su una curva pericolosissima, con continuo passaggio di macchine lanciate a folle velocità. Ogni 26 minuti un'utilitaria usciva di strada. Entrando dalle cucine, raggiungeva la sala ristorante e falciava il 90% degli avventori. Ma c'era una tale ressa, in piedi ad aspettare, che gli investiti venivano subito rimpiazzati da nuovi clienti. Fantozzi e il conte aspettarono 23 minuti esatti. Poi, dopo il 12° incidente, presero posto. Era finito tutto e mangiarono solo una squallida spaghettata al burro. «Venga!» Il direttore si alzò dandogli una tremenda manata sulle spalle e gli fece ingoiare l'ultima capsula d'oro. «Andiamo a farci una partita di bocce!» Fantozzi non aveva osato dirlo al conte Mughini, ma non aveva mai preso una boccia in mano in vita sua. Quando venne il suo turno, si fece un grande silenzio nella valle. Le tribune si riempirono di spettatori. «Venga adagio qui sul pallino», gli ordinò il conte. Fantozzi giocò così debolmente che la boccia fece solo 2 giri e si fermò a 10 centimetri dalla linea di partenza. Fantozzi era nervoso e gli sudavano le mani. «Cosa fa? Dorme?» gli urlò il conte facendolo sobbalzare. «Tocca a lei, sa! Giochi le sue bocce!» Questa volta Fantozzi giocò con grande violenza e colpì netto la tibia di un giocatore che lasciò la partita ululando. Per farsi coraggio, tracannò una bicchierata di vino che lo travolse e partì. Veniva giù dalle colline in un silenzio orrendo. Quando fu a 1 chilometro dal campo, inciampò in un arbusto e fece un volo di 12 metri in un cespuglio spinato. Si distrusse completamente l'abito della domenica. Era una pesantissima grisaglia che nei suoi piani gli doveva durare 15 anni. Lacero e sanguinante si alzò. Il vino stava facendo il suo effetto. Entrò in campo ansimando e con la vista annebbiata e da 4 metri sparò una cannonata terrificante. La pesantissima boccia di metallo di 42 chili centrò in piena nuca il suo direttore, che aveva accostato alle labbra in quel momento un bicchiere di vino ristoratore. Fantozzi non si fermò neppure a chiedere scusa, ma si diede alla macchia sulle montagne. Cominciò allora una delle più feroci cacce all'uomo degli ultimi 120 anni. Parteciparono alla ricerca cani poliziotto e feroci molossi napoletani, mescolati ai quali c'erano moltissimi impiegati ruffiani che si erano offerti come cani da riporto per segnalarsi presso la direzione sperando in un aumento. Dopo 3 giorni e 3 notti di drammatica caccia tra gli acquitrini, Fantozzi fu circondato da un gruppo di colleghi abbaianti, tenuti al guinzaglio da alcuni feroci dirigenti. Ora si trova nel canile municipale di Montezemolo, in attesa di processo. I molossi napoletani lo guardano con disprezzo. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Paolo Villaggio, Fantozzi, Ragionier Ugo, la tragica e definitiva trilogia. Rizzoli, 592 pagine, 14 euro.